4 mattino di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Guarda come sono tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attento al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Lavorando a una mozione unitaria delle opposizioni per chiedere la sfiducia al ministro Lupi. Tuttavia ci aspetteremo da Renzi un atto di dignità, sia lui a chiedere le dimissioni al ministro Lupi. Lupi non è indagato, non gli elementi per dare prematuramente il dire sì, si deve dimettere o no in questo momento. Credo che però una valutazione da parte sua sia, come dire, sia in corso. Quest'amore piccolo così. Ti dimetti immediatamente, chiedi scusa e restituisci tutti i quattrini che ti sei preso come ministro delle infrastrutture, perché hai fallito clamorosamente. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita non è, qualche volta fa un po' male. Ma vogliamo ascoltare che cosa dirà, però sicuramente non può andare avanti a fare il ministro. Dico qualcosa di più, ha un capo che fa il ministro dell'interno e che è il capo del suo partito. Noi oltre a Lupi vogliamo mettere in discussione anche il signor Alfano. Sempre attenta al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. O attenti al Lupi! Eh sì. Oggi, beh, Del Rio, avete sentito, ha detto sta meditando. Secondo i giornali, Renzi, furibondo, pretenderebbe le dimissioni di Lupi, ma che siano un gesto spontaneo, meglio che appaiano come un gesto spontaneo. E Lupi invece dice no, io non mi dimetto. Amore mio, finora, ma le giornate in questi casi sono lunghe, perché poi si leggono i giornali, oggi si legge delle numerose telefonate, racconta il Corriere, di Lupi per cercare lavoro al figlio. E vabbè, insomma, questo uno, sai, ti mando il curriculum, vedi tu. Poi su Repubblica invece si scopre, c'è una circolare di Lupi. Vietato accettare regali del valore superiore a 150 euro. Circolare a tutti i dipendenti del ministero. C'è questo Rolex, però non l'ha accettato lui, il figlio. Rolex da 10.000 euro per il figlio. Insomma, la situazione è un po' complicata. E adesso, per la verità, spuntano anche delle intercettazioni in cui qualcuno di questi imprenditori che aveva un'interdittiva antimafia per lavorare, a questo punto bisogna avvertire il nostro amico al Ministero dell'Interno, e dopo qualche giorno ecco che qualcuno gli dice: ne ho parlato con Angelino. A questo punto è il nuovo centrodestra che diventa un po', come dire, sulla graticola, eh? Eccolo qua, dov'è il giorno? Eccolo qua, stop ai lavori, l'impresa chiede aiuto, tutto ok, ho chiamato Alfano. Vabbè, dacci oggi le nostre polemiche quotidiane a 24 mattino alle 6.35 minuti con Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, la nostra rossa Paola Saluzzi. Dal 2015, evviva le rosse, e torna Madinenza, evviva la Paola, con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri pettizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Te la sei messa come suoneria? Assolutamente sì, ma buongiorno. Io volevo partire con, salutandoti con atteggiamento e Equino, Equino. Alessandro, perché per chi non avesse ascoltato, vada immediatamente a riascoltare ieri, sì, nel finale, il dentista puntata, per cavalli, i lavori che voi state trovando, il dentista per cavalli, bisogna avere un atteggiamento Equino. Sì, sì, il dentista per cavalli ha avuto uno successo strepitoso, ci ha raccontato di lui come ha un atteggiamento, un approccio equino, equino col cavallo. Assolutamente, meraviglioso. Beh, insomma, oggi bisogna avere approccio soprattutto molto zen. Molto zen. E molto zen. Tu lo sai che, zen è il nome della mia gattina, lo sai? Ma quando uno è perfetto, è perfetto. Parliamone, parliamone. A proposito zen. Di perfezione... Luca Dini, a proposito di per me, questo è un assist, è proprio direttore di Vanity Fair, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Secondo te com'è l'approccio equino con un cavallo, Luca? Io non l'ho capito, il nostro dentista per cavalli ieri cercava di spiegarcelo dicendo che non è un carnivoro ma un erbivoro e quindi ci vuole un approccio equino con il cavallo. Che dire, anche tu saresti rimasto sorpreso, eh. Eppure ha studiato a lungo per questo approccio equino. No, beh, se lo prendiamo in giro, ma è una persona straordinaria, eh. Assolutamente, straordinaria. Anche perché il modo migliore per, come dire, per iniziare la giornata sorridendo. E certo, è certo, è certo, perché adesso parliamo di lupi, altro che cavalli, invece, altro che cavalli. Allora, vi faccio subito il quiz, dai, Luca Dini, ci dovrebbe dimettere oppure no? Il ministro Lupi che non è indagato, ricordiamo, non è indagato, Luca. Direi, non so, Lupi Ululì, governo Lulà, cioè, secondo me, vabbè. Sì, terribile. Vabbè. Comunque, secondo me, insomma, ci sono delle, come a volte è sempre il discorso, cioè, c'è una cosa che è le indagini, la legalità, e poi c'è una cosa che è l'opportunità politica. Secondo me sì, si deve dimettere. Si deve dimettere, eccola, eccola. Paola Saluzzi, tu la sentenza lo farà. Penso che lo farà. Guarda, anche secondo me si capisce dalla pressione mediatica che alla fine lo farà. Dicendo queste cose, è un errore, ma vista la situazione non si può più lavorare, no? Lo farà, secondo sì, penso che lo farà. Insomma, credo che il Renzi in quanto governo siano così a questa precisa richiesta, insomma. Poi rinnoviamo, c'è un lavoro che è appena iniziato, lo ribadisco, non si fanno i processi, no? Un arresto non è un processo, e quindi stiamo parlando delle persone arrestate, non di lupi, chiaramente, appunto, non è neanche indagato. Però penso che andrà verso questo tipo di decisione il ministro, sofferta, considerata anche forse ingiusta, non lo so, questo ognuno di noi ha i propri parametri, però penso che lo farà. Pensi che lo farà? Sì, anch'io sono di questo parere. Alla fine credo che Lupi non reggerà questa pressione, questi racconti che ci sono tutti i giorni sui giornali. Ripeto, l'ultima è le telefonate per ottenere un lavoro al figlio. Ma anche questo, ma le telefonate per ottenere un lavoro al figlio? Luca, ma adesso io i figli sono piccoli, ma tu non faresti mai una telefonata, cioè dire guarda, c'è mio figlio, prova a vedere il curriculum? È una cosa così scandalosa? Beh, in quella posizione e in quel tipo di lavoro sì, assolutamente. Ma dipende che lavoro, cioè un ministro non può avere anche un figlio, cosa che ha, che dice certo, guarda, mio figlio si è laureato, puoi vedere se è bravo, se è bravo. Sì. Ma non stiamo parlando di un operatore privato, diciamo. Qui si tratta di ruolo pubblico e soldi pubblici, quindi è molto diverso. E poi esiste una cosa che si chiama appunto opportunità, cioè a volte ci sono dei ruoli in cui a parità di talento non è tuo figlio che deve prendere il lavoro ma un altro. Ah, addirittura, quindi, cioè avviene... Sto dicendo a parità di talento, non voglio dire che... Non deve essere capace. Sfavorito. Beh, però così viene anche un po' sfavorito, cioè diventa quasi una sfiga in alcuni casi. Voglio dire, diciamo che è già sfavorito da altre cose, nel senso che, insomma, è il figlio prendiamo in giro, cioè secondo me un ministro non può chiamare un altro per in un ruolo pubblico e con dei soldi pubblici per avere un lavoro. Per avere un lavoro. Questa è la questione che viene dibattuta un pochino dai giornali anche oggi. Sentite i magistrati si sono arrabbiati, il sindacato dei magistrati soprattutto, l'ANM, Sabelli. Senti Paola Saluzzi cosa ha detto ieri, credo a Uno Mattina. Uno Stato che si rispetti dovrebbe prendere a schiaffi, diciamo virtualmente, sì, ovviamente i corrotti e accarezzare coloro che svolgono il controllo di legalità, cioè i magistrati. Purtroppo in Italia è accaduto all'esatto contrario, cioè i magistrati sono stati virtualmente presi a schiaffi e i corrotti accarezzati. Sorrideva il conduttore, ma non si è reso conto forse in quel momento di quanto avrebbe creato polemiche questa frase. Chi c'è Luca? Non sei d'accordo? I magistrati basta guardare quello che guadagnano i magistrati rispetto a tutti gli altri. Sì, proprio presi a schiaffi, effettivamente non è una. È proprio, guarda, onestamente è un po' uno schiaffo a tutti gli altri, secondo me. Questa frase è brutta. È questo lo schiaffo. Paola, è il suo lo schiaffo. Anche loro hanno un ruolo, cioè voglio dire, non lo so, mi sembra. Una frase molto, esagerata, molto infelice. Diciamo che è il momento, in cui, come sempre, in accese discussioni volano i pezzi, no? E quindi Renzi ha risposto, adesso oltre le parole, agire con i fatti. Ecco, forse adesso è il momento in cui è chiaro che il concetto dei corrotti, nel momento in cui i corrotti saltano su, fanno saltare anche altre cose, no? I nervi, per esempio, e quindi le discussioni a distanza, secondo me, nonostante il fatto che noi lavoriamo per le discussioni a distanza, perché le raccontiamo attraverso le interviste, questo è naturale, è normale, e vanno poi sempre riviste quando queste persone si dovessero incontrare faccia a faccia, no? Lì bisognerebbe avere la GoPro, la piccola telecamera. Questo l'ha detto Sabelli, adesso aspettiamo e vediamo, insomma, ecco, forse a schiaffi no, ecco. Comunque mi scrive mi scrive Marta a dire: Milan, non dire cavolate, Lupi non può chiamare per il figlio, dai, sono cose elementari. Vabbè, non può chiamare per il figlio, però ho chiesto a te Paola, può chiamare per il figlio Lupi? Può fare una telefonata? No, mai. Può farla assumendosi, per evidenti motivi, insomma, assumendo il senso e la responsabilità di questa chiamata. Sicuramente, come diceva il direttore, c'è un calcolo da fare prima, no? Un calcolo un po' mentale, che probabilmente non rientra nell'abitudine, ma io non sto accusando nessuno. C'è un'abitudine, ecco, sì. questo andrebbe forse rivisto e rivisitato nel nostro paese, l'abitudine. Parlo, guarda, senza pelle, sì. So quello che dico, è un'abitudine sbagliata. Un'abitudine sbagliata. Ribadisco, senza pelle, come se mi mettessero il sale su una ferita, è un'abitudine sbagliata, purtroppo. Allora, che dire, intanto io voglio parlare di quest'altra cosa. È da giorni che non ce ne liberiamo più di Dolce Gabbana. Caro direttore, tu che hanno tirato in ballo anche un'intervista vecchia di Vanity Fair, sei andato a recuperarla, siete andati a leggerla? Ma diceva, è vero che dicevano le stesse cose che hanno detto? Sostanzialmente sì. Non sono volta ai Gabbana, allora? Ma no, non è vero, c'è uno dei due, cioè Domenico Dolce, che ha questa posizione discutibile quanto vuoi, io non la condivido, però è quella. Contro l'idea che gli omosessuali possano avere dei figli, perché sarebbero figli, sì, no, come, ma dire, non, chimici, come che la definisci, sintetici. Sì, che poi non parliamo solo di omosessuali, qui chi si sente offeso chiaramente è anche tanta altra gente che ha dovuto fare ricorso. Sì, a pratiche, certo. Non per divertimento, ma perché per necessità a pratiche che sono, insomma, che non sono sintetiche o di plastica, perché i bambini sono bambini uguali. Diciamo, non sono quelle naturali, quelle della natura. Esatto. Ecco, poi comunque è una sua posizione, ripeto, io non la condivido, ma è sempre stata quella. Vabbè, ma adesso i pantaloni sì, diametralmente opposti. Sì, ma il vestito Dolce Gabbana, non ho capito, che hai lì 10 vestiti, li hai bruciati oppure li tiri? No, io non brucio niente, perché non credo, cioè non mi piacciono i boicottaggi. Non ti piace a me portaggi. Non piace, mi puzzano sempre. Invece, tu Paola Saluzzi, la vestaglina che vesti adesso Dolce no. Allora, il collegamento è netto. Invece di bruciare, regalate, tutto al più, se volete, andate, fate una bella valigia e regalate, no? Sì, sì. E quindi già questa è una cosa. I figli non sono sintetici, nel senso che se probabilmente gli è scappata la mano perché hanno a che fare con la seta, con sembrava che parlassero di un vestito, dice no, no, quella in poliestere. Sì, però devo dire che è l'aggettivo più, tante volte per essere efficaci nella comunicazione, è l'aggettivo che fa capire che non sono naturali. Ieri certo, è brutale. Una nostra amica, collega in redazione, che ha avuto un bambino. Per sua scelta, perché voleva, si è arrabbiata molto. Io ho visto una mamma di un bambino sintetico. Molto arrabbiata. Madonna quant'era arrabbiata, ma proprio una, credo li avesse avuti davanti, li avrebbe schiaffeggiati a tarantella. Sintetici a chi? Però riprendiamo da qui tra un attimo, perché c'è il traffico. Poi preparate anche le palette, eh? C'è un voto da dare da 0 a 10 per una canzone, un'esibizione canora. E vi dico subito, prendete pure le palette dallo 0 al 3. 24 mattino. Milan, questi cattolici, questi ciellini, Marione, Lupino, tre Ave Maria, quattro Paternoster, l'olio di ricino ci vuole! Milan, prova a immaginare un imprenditore estero che avrebbe l'intenzione di aprire un'impresa o fare un investimento qua in Italia e legge l'inchiesta di Firenze dello scandalo delle grandi opere e dell'arresto di Ettore in calza. Ma cosa pensi che faccia questo? Questo va piuttosto ad aprire in Albania o in Repubblica Centroafricana, non viene più ad aprire un'impresa qui da noi. Milan, fammi capire, ma in Val di Susa se le sono date di santa ragione e se le continuano a dare per questa cricca qua, ma forse c'è qualcosa che non quadra. Buongiorno, mi meraviglio che ci si meravigli, solito scandalo, solita corruzione, paga pantalone. Ebbene sì, com'era la soluzione? Paola, l'hai sentito? Quello? Per carità, un po' arrabbiato. Un chiavo da solo. No, oggi ti dicevo, non mi amo nemmeno. No, però faceva ridere molto, crescendo che lasciava un po' così. Ecco. Allora, a proposito di figli, oggi Nichi Vendola, anche Repubblica, racconta voglio sposarmi col mio Ed, e poi, però non si capisce, non risponde mai alla questione del figlio, no? Anche Repubblica dice, ma il figlio lo vuole, appena lascerò l'incarico rifletterò se affrontare la paternità oppure no, un pensiero che riposa in un angolo della mia vita e che ho sempre rimandato. Però una cosa vorrei fare subito, sapete qual è, Luca? Sai qual è? Scrivere un libro di filastrocche per bambini. Ecco, questo. Basta che non lo racconti a voce, perché subito. Esatto. Oppure basta che lo racconti a voce se le filastrocche devono fare addormentare a volte. Ma allora basta breve. Un audiolibro di Vendola. No, ma sì, vabbè, dai, si scherza, come Checco Zalone racconterebbe. Però a te non fregherebbe niente un Nichi Vendola con un figlio, Luca, se tanto mi dà tanto. Ma guarda, anche qui non voglio fare, però le stesse cose le aveva dette tipo 3 anni fa, pari, sì. Ma sai, io non, a me no, però io, sai, ho le mie opinioni. A Dolce Gabbana darebbe fastidio, forse, immagino. Molto, però ribadisco, mi fanno ridere soprattutto gli italiani, cioè Dolce Gabbana e le loro posizioni l'hanno più volte manifestate, chi si straccia le vesti adesso, appunto straccia le vesti e le brucia. In Italia mi fa un po' ridere. Ma senti qua, tra l'altro Vendola proprio dice che Dolce Gabbana spero correggano la loro caduta di stile, che è detto per due stilisti effettivamente. Però Paola, è come il figlio sintetico. Sì, esatto. Paola, c'è la questione, il dibattito che c'è stato da giorni a dire la lobby gay subito si è scagliata. Effettivamente questa cosa non si capisce, perché come ci ha detto Luca Dini, lui non è d'accordo con la posizione di Dolce Gabbana, soprattutto di Dolce, però è la loro opinione, che devono fare? Cioè, vabbè, ma voglio dire, non sono liberi di dire. Anche, ho capito, allora, si è scatenato appunto il boicottaggio, le robe. Il boicottaggio, mettiamogli pure la lettera scarlatta e via. No, che citazione meravigliosa! Meravigliosa, D e G così. Esatto, mettiamoli D e G in fronte. Sai che gli stai dando un'idea per la prossima sfilata, vero? Esatto. Guarda, non scrivono mai. Prossima campagna pubblicitaria, Luca, tu che sei più vicino a loro, dai, D e G come la lettera scarlatta in fronte. È troppo. Siamo terribili, siamo terribili. Così è troppo, nel senso che ecco, poi si scatena il contro che diventa non si fanno le guerre in questo senso, no? È troppo. Sicuramente loro sapevano, credo, perfettamente di accendere un dibattito di questo genere. Ci sarà tutto il tempo per rimediare, tutto il tempo. Sai, tolto chi ha bruciato il Mein Kampf, che ancora qualcuno, non so perché, edita da qualche parte di mondo disgraziatamente, quello veramente dei falò, bisognerebbe riempire le piazze e bruciarli tutti questi libri schifosi, anzi un unico libro schifoso quale quello, i libri non si bruciano, i vestiti nemmeno. L'idea del fuoco l'abbiamo visto poco tempo fa. Sì, non porta bene. Comunque un consiglio, toglieteli prima di bruciarli. Sì. Vabbè, insomma, spero che alla fine di questo lungo, meraviglioso anno radiofonico si possano condensare le battute insieme al libro di Filastrocche di Vendola, ma veramente no, facciamo fronte retro, Filastrocche davanti e Barzelletta e Luca di indietro. Allora devo correre, la copertina di Vanity Fair a Jude Law che interpreta il Papa. Buongiorno, sono Francesco. Mi sono svegliato presto alla mattina ho sentito la rossa del mercoledì. Saluto lei, perché che si sposta, si sa, Jude Law che interpreta il Papa, c'è questo nella copertina di Vanity Fair. Sì, ma ha colpito però Gerry Scotti che dice tra un anno lascio, ma non lascia nessuno, Luca, ma c'è Maurizio Costanzo che fa il Maurizio Costanzo Show, ma che lascio, ma non lascia nessuno qua. Lascia. Vediamo, lo aspettiamo al varco. Lascia, chi lo sa. Va bene, le palette alte. Ho pensato, il Papa. Sì. Gerry Scotti, lascia, dico, Gerry Scotti smette di fare il Papa. Esatto. Ma è orrenda, me ne ricordo, ma sai, dopo Ratzinger. Tenete sulle palette che c'è Livia Turco che canta la canzone di Marinella. Oddio, canta. Vabbè, Radio Rock. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore russo il suo mantello. Finite questo strazio. Lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. Luca al voto! Dopo tanti anni sappiamo perché Marinella si è suicidata. Paola, tuo voto. No. Dopo questa ti fermiamoci così, non c'è nulla da aggiungere. No, è meravigliosa. No. L'ho detto, tagliatele, mettete Lorenzo Nespoli, non... fatelo, non c'è nulla da aggiungere se non che alle 3 la rossa del mercoledì è su Sky, ricordatevelo. Ciao, vi abbraccio. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora eccoci qua, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, anzi lo dico, lo urlo al vento, amici debosciati miei, che vi attardate nelle lunghe colazioni infinite. Noi siamo in pista dalle 5:30,

in pratica qualcuno dice sotto i 55 kg, però dipende dall'altezza ovviamente delle modelle. Nessuna donna dovrà mai più morire per la moda, questa è la proposta di legge in Francia. Mentre siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, una pagina, Nino Materi sul Giornale per raccontare che Belen e De Martino non sono più insieme. Per Belen manca il guizzo, io ho bisogno di guizzo, hai capito De Martino? C'ha bisogno del guizzo Belen, il guizzo. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan! Che devozino via fuoco! Milan, il cagnas randaggio dell'informazione! Se fossi tua moglie, quante botte ti darei! Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu! Allora, alle 8:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo qui politicamente, se leggete i giornali parlano tutti di lupi, balla coi lupi, Renzi balla coi lupi, aperta la caccia ai lupi, tutti che giocano così. Sarà il giorno delle dimissioni? Secondo i giornali Renzi ha chiesto più volte a Lupi: guarda, è meglio che ti fai da parte, che appaia come un gesto spontaneo. Ma Lupi per il momento resiste. Certo, pesano un po' oggi sui giornali i racconti delle telefonate fatte da Lupi per far avere un lavoro al figlio Luca. Staremo a vedere. Noi intanto per oggi vogliamo parlare di altro. Vogliamo partire da intanto. Beh, ieri ci sono stati a Terni i funerali in Duomo di David Raggi. Chi è David? È questo ragazzo che è stato ucciso da un ubriaco a Terni. Un fatto che, diciamo la verità, ha scatenato reazioni, rabbie, istinti anche un po' bassi, e mi è rimasto molto impresso il titolo di Libero domenica scorsa, era questo: ora i clandestini ci sgozzano per strada. Perché? Perché l'assassino di David è un marocchino irregolare, espulso dall'Italia, tornato in Italia dopo essere stato espulso con un barcone di quelli che arrivano a Lampedusa o in altri posti. E questa volta si è fatto furbo, aveva chiesto lo status di rifugiato politico e ha trovato un avvocato, ovviamente, che ha portato avanti questa causa civile, questa richiesta. E nel frattempo una sfilza di reati fino al reato più terribile, l'omicidio di David. Io voglio salutare intanto l'avvocato di famiglia, della famiglia di David Raggi, l'avvocato Massimo Proietti. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, avvocato di parte civile. Grazie. Mi lasci salutare anche il sottosegretario all'economia e il segretario di Scelta Civica, Enrico Zanetti. Buongiorno Zanetti. Buongiorno. Allora, ripeto, non scadiamo, e guardate, il gesto migliore l'ha fatto credo ieri il fratello di David ai funerali, ha donato i fiori agli immigrati che erano lì presenti e si sono stretti al dolore della famiglia. Quindi no al razzismo, agli istinti più bassi, certo anche no al buonismo più d'accatto, io vorrei dire. Sottosegretario Zanetti, lei ieri ha voluto insistere su un punto: c'è un modo per controllare gli immigrati? Ci sarebbe un modo per controllare gli immigrati, soprattutto quelli clandestini? Quale? Guardi, come dire, modi perfetti non esistono mai. Il compito è cercare soluzioni praticabili e arrivare all'approssimazione migliore per gestire un tema molto complesso. Io credo che si debba mettere mano in modo serio alle normative in materia di obblighi di identificazione. Questo va fatto anche avendo poi attenzione a quello che accade a livello europeo, perché oggi c'è un trattato, il trattato di Dublino, che fa sì che sostanzialmente quando gli immigrati vengono identificati poi devono permanere all'interno dello Stato stesso, non potendo circolare nel resto dell'Unione Europea, cosa che fa sì che oggi di fatto in un certo senso sia quasi conveniente non identificarli, perché almeno così quelli che vogliono andarsene negli altri paesi se ne vanno. Addirittura, cioè a uno Stato converrebbe non identificarli magari con le impronte. C'è una sorta, parlo di convenienza, non è che c'è un patto neanche tacito, però c'è di fatto una situazione tale per cui da un lato l'immigrato interessa non essere identificato, dall'altro lo Stato stesso, che comunque deve mettere in pista tutta una serie anche di maggiori risorse e strumenti per consentire alle forze di polizia di fare bene questo lavoro, finisce per non farlo adeguatamente. Allora il tema qual è? Che in questo modo ci si ritrova ad avere che circolano per il paese soggetti non identificati, laddove invece a mio avviso la procedura tale per cui tu vieni identificato con le impronte digitali e l'accesso non è neanche qualcosa da legare all'immigrazione, ma è qualcosa da legare anche a chi viene da chi è extracomunitario e viene come turista nel nostro paese. Infatti lei ieri l'ha sottolineato a dire bisognerebbe prendere le impronte, cosa che peraltro in teoria per legge andrebbe fatta. Sì, c'è un problema da un lato di risorse, da un lato di funzionamento adeguato delle banche dati, da un lato anche però di normativa non sufficientemente cogente. Se si fosse fatto così, voglio dire, un soggetto specifico come quello che purtroppo, quello che ha commesso questo orrendo crimine, essendo stato già a suo tempo espulso con già degli reati già scritti, quantomeno nel momento in cui si ripresenta viene trattenuto, perché se è populistico, anche perché quando ci si arrabbia ci stava a dire certe cose, ma in termini di azione di governo è populistico dire respingiamo tutti, fermiamo, fondiamo i balconi, però neanche non controlliamoli, voglio dire, neanche liberi tutti. Il problema è proprio questo, che però tendenzialmente c'è chi da un lato questo tema lo sta sottovalutando per retaggi forse anche un po' ideologici del passato che si trascinano, e c'è chi invece, anziché volerlo risolvere questo problema, è troppo appassionato nel cavalcarlo. Sì, io vorrei parlano di cose che non stanno né in cielo né in terra, mentre questi sono i temi con cui puoi iniziare in modo serio a fare un'attività di prevenzione. Ma certo, sì, come ho detto, né razzismo, ma neanche buonismo, neanche buonismo da cattolo. Lo dico io. Tra l'altro, c'è chi mi scrive: rompa il giocattolo, caro Milan, dica che c'è un business dietro al gratuito patrocinio. Beh, sì, ma c'è anche un business, probabilmente ne ho lette anche di inchieste sugli avvocati che vivono di questo, di ricorsi. Per carità, tutti hanno diritto, se ne hanno diritto, a fare un ricorso perché magari fuggono da una guerra e quindi ci vuole un avvocato che porti avanti questa pratica. Però ecco, in questo caso, non so, chiedo all'avvocato Proietti. Avvocato, lei è riuscito a capire, perché noi non riusciamo a capire, chi è che per esempio ha fatto questa pratica per fare in modo che rimanesse in Italia la persona che ha ucciso David? Ma purtroppo ancora questi sono elementi che non ho a disposizione, e sarà interessante capire la situazione, la posizione giuridica di questo marocchino, perché il problema qui non è tanto le normative dirette ad individuare il clandestino o a poter in qualche modo evitare di avere soggetti non noti nelle città. La questura di Terni sapeva benissimo chi era questa persona. Erano già diversi giorni che creava problemi. Il soggetto poteva tranquillamente essere, in una maniera diversa e con gli strumenti che la legge pone a disposizione, quantomeno posto in condizioni di sicurezza. Se non aveva fatto reati, se non lo so, aveva commesso dei reati Però guardi, il problema è questo: nel momento in cui si creano delle situazioni di pericolosità sociale, sì, è possibile intervenire, ad esempio, con avvisi orali, e questo poteva avvenire prima, con misure di sicurezza, quindi con una serie di contromisure che in qualche modo vanno a monitorare il soggetto. Ora però il problema è anche un altro: che cosa è successo con questo famoso ricorso, sì, che avrebbe in maniera automatica sospeso il lui ha fatto un ricorso per come profugo, come avente ora diritto. Il ricorso, per quello che sappiamo, naturalmente anch'io per quello che so dai giornali, il ricorso che è stato presentato al tribunale di Caltanissetta era un ricorso diretto a contestare la decisione della commissione per l'asilo politico, che aveva rigettato la domanda di asilo politico. Ora, in questo caso, attenzione, e questo sarà interessante capire, la sospensiva non è automatica in tutti i casi. Mm-hmm. Ci sono delle ipotesi, e questo bisognerà accertarlo, perché io se questo era il caso, che siamo proprio in una di queste ipotesi, in cui nell'ipotesi per cui il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile, oppure nell'ipotesi in cui la domanda è stata respinta per manifesta infondatezza, o ancora quando è stata presentata da un soggetto che si trovava in un centro di accoglienza ed è stata presentata dopo che ha eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera, in questo caso la sospensiva non è automatica, ma deve decidere il giudice se sospendere o no. Vabbè, questi sono i margini, è chiaro, per capire secondo lei c'erano i casi, c'era la possibilità in questo modo di non sospendere, rientrava in uno di quei casi in cui non si doveva sospendere questa procedura di espulsione, mettiamo così. Però, sottosegretario Zanetti, come fanno notare molti, lei è al governo. Per la verità, l'Europa ci ha bacchettato, se non sbaglio, su questa cosa delle impronte europee, delle impronte digitali. E lei ci ha fatto capire che anche rischia di essere conveniente, lo so che è brutto dirlo, non prenderle, perché se uno si prende le impronte di uno che arriva, poi se lo deve gestire. E siamo a questo livello. Ma l'Europa dov'è? Cioè, c'è un regolamento tale. L'Europa ci ha bacchettato proprio perché appunto vorrebbe che viceversa nel prossimo più efficaci in questa attività di identificazione, ma proprio perché così facendo eviterebbero di ritrovarsi poi soggetti che si vanno a identificare in altri paesi dopo essere andati via dall'Italia e averli loro in carico. L'Europa francamente qui più che bacchettarsi deve stare zitta, e anzi dobbiamo essere noi un pochino più, anzi senza un pochino, dobbiamo essere parecchio più incisivi, perché onestamente stiamo vivendo un momento storico che è assolutamente complesso in termini di guerra ai nostri confini, intesi come Europa, intesi come appunto quindi Medio Oriente piuttosto che Nord Africa, e di fronte a una situazione così particolare anche le risorse messe a disposizione per fronteggiare questa vera e propria emergenza sono assolutamente insufficienti. Inoltre quel trattato di Dublino è un trattato che ovviamente piace ai paesi che sono lontani dai confini mediterranei dell'Europa, ma penalizza enormemente i confini nostri. Detto questo, ripeto, io apprezzo anche i tecnicismi assolutamente importanti che ha illustrato l'avvocato. Più banalmente dico che nel caso di specie la tragedia che immane in sé diventa inaccettabile perché appunto l'autore non è neanche un soggetto che per la prima volta veniva in Italia, come c'è la presunzione di innocenza c'è anche la presunzione che un cittadino, che uno straniero che arriva non necessariamente sia un malvivente, però nell'istante in cui invece è un soggetto che già era stato espulso, riaverlo che circola all'interno è francamente rende proprio la tragedia. No, ma io dico anche tutto questo business, perché è un business. Io vorrei parlare, se quell'avvocato che ha fatto il ricorso ci ascolta e ha intenzione di spiegarci perché ha fatto questo ricorso, lo venga a spiegare, ci scriva a 24 mattino @radio24.it e ci venga a dire perché questa persona che era stata espulsa dall'Italia, che è tornata su un barcone, che ha fatto una richiesta, che è stata rifiutata, ha fatto un ricorso per far sospendere la seconda espulsione, a questo punto sarebbe stata. Io buttare la croce addosso. La vedo più complessa. Diciamo che certamente, ad esempio, ecco, il giudice c'è stato ben spiegato. Poteva non sospendere, e devo dire che effettivamente è necessario, a mio avviso, che rimettiamo un po' mano alla normativa, prenderla un po' più stringente, anche perché mi sembra evidente che mediamente, non vuol dire sempre, non vuol dire per tutti i giudici, ma mediamente la nostra magistratura, laddove ha un potere discrezionale su questi temi, lo esercita ancora verso sempre logiche ipergarantiste. E allora è meglio ridurre questa discrezionalità senza arrivare ovviamente ad eccessi opposti, ma ridurre un po' questa discrezionalità, allora, porre dei paletti. Facciamo così, tanto noi ne parleremo ancora di questa vicenda, però sottosegretario, visto per chiudere, e ringraziando anche l'avvocato Proietti, le faccio una domanda su lupi, tanto voglio dire, la fanno tutti le domande su lupi, lei è al governo e le chiedo diretto, secondo lei per quello che ha letto Lupi dovrebbe dimettersi oppure no? Guardi, non ho ancora letto abbastanza per essermi fatto un'idea precisa, me la farò brevissimo. Credo che Scelta Civica su questi temi dell'etica, dell'attenzione e proprio la trasparenza abbia poco da prendere lezioni. Siamo stati chiarissimi anche sul caso De Luca in Campania, dicendo chiaramente che nulla di personale nei confronti di De Luca, ma candidature come quelle per noi non sono praticabili perché sono proprio di inopportunità politica totale. Lì ci sono degli elementi oggettivi, qui stiamo parlando ancora di alcune telefonate, vorrei proprio perché, come dire, le cose vanno dette non per partigianeria politica, né contro, né. Non si è fatta ancora un'idea precisa. Sì, su questo vorremmo un attimo capire meglio alcuni passaggi e poi diremo la nostra, ma ripeto, credo che Scelta Civica su questi temi abbia sempre dimostrato coraggio, anche quando si trattava di propri alleati. Cioè, è orientato... mai delle nostre figlie, perché per fortuna, devo dire, su posso dire che è orientato verso più dimissioni, sì, mi pare di capire, però... No, in questo momento, ogni parola in questi casi pesa molto. Non voglio, ripeto, finché non ci saremo formati un'opinione, ma non sto mica parlando di settimane. No, è chiaro. E sia un'idea più precisa, diremo la nostra, come l'abbiamo sempre detta, anche ripeto, faccio un esempio recente e la diremo adesso, però preferisco ancora leggere e guardare un attimo. Va bene, la ringrazio. È in movimento. Sì, certo, si parla di oggi giornata abbastanza decisiva su questo. Allora la ringrazio, sottosegretario dell'economia Zanetti. Dopo la pubblicità noi partiremo da alcuni dati sul carcere. Antigone, associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, ha dato alcuni dati sui costi dei detenuti. Noi per esempio paghiamo 150 euro per ognuno dei 54.000 detenuti, in Francia 133, 50 in Spagna come media. Lo faremo attraverso il racconto di una storia. In carcere ci sono tante persone che passano. C'è anche chi vive il carcere da innocente, completamente innocente. Vivere il carcere è già una tragedia, e viverla da innocente, che tragedia nella tragedia è? È la storia di Mario Rossetti, che sarà ai nostri microfoni tra poco. Ma ascoltano una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! E allora, alle 8:40 minuti, ieri l'associazione Antigone, che si occupa dei diritti delle carceri, ha rilasciato un rapporto annuale nel quale ha raccontato che ci sono in questo momento 54.000 detenuti, un sovraffollamento del 118%, il rapporto tra detenuti e posti letto, quindi ci sono più detenuti di posti letto ancora nelle carceri italiane. E alcune cifre: spendiamo in Italia 150 euro per ogni detenuto, contro i 133 euro della Francia e i 50 euro di Spagna. L'83% di questa cifra, di questi 150 euro, se ne va per gli stipendi del personale. Carcere, vogliamo parlare di carcere, un'esperienza terribile per chiunque la prova, anche da colpevole, io sono certo di questo. Pensate da innocente, pensate cosa vuol dire stare in carcere da innocente completo. Lo so, è difficile da pensare, io non ci riesco, ma abbiamo la possibilità di chiederlo a una persona che è passata attraverso questa esperienza. Si chiama Mario Rossetti, lo saluto intanto. Buongiorno Rossetti e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ne ha scritto anche un libro dal titolo Io non avevo l'avvocato, lo ha fatto con il collega, con il giornalista Sergio Luciano, edito da Mondadori, lo potete leggere. Iniziamo proprio dal giorno dell'arresto, una mattina alle 5 del mattino, credo, di che giorno, Rossetti? Dal 23 febbraio del 2010, sono già passati 5 anni, ma sembra ieri. Sembra ieri. Lei che era direttore finanziario di Fastweb, non all'epoca, lo è stato, però fu arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di quella vicenda che finì su tutti i giornali. Sì, era l'inchiesta Fastweb Sparkle, è un'inchiesta che è andata sulle prime pagine dei giornali per molto tempo, e questo è stato uno degli aspetti importanti, l'aspetto mediatico, nel senso che prima ancora che si fosse iniziato qualsiasi tipo di approfondimento, noi eravamo già stati condannati sui giornali, sui telegiornali, in un modo direi molto molto importante, molto molto pesante. Saltiamo alla fine per poi vedere che cosa ci sta in mezzo, che è la cosa più importante, è il senso anche del suo libro. 17 ottobre 2010, in sentenza di primo grado, che cosa le dicono? Prosciolto, tante scuse. 17 ottobre 2013 veniamo assolti, ma la cosa importante sono le motivazioni di quella sentenza, che escono poi nell'estate successiva, quindi nel 2014, dove con 1800 pagine vengono riviste tutti i punti che si aveva mosso l'accusa, vengono smontati uno per uno, e io lì ho trovato poi il coraggio per scrivere questo libro, perché il tema della vergogna sociale, il fatto di non aver commesso niente però di avere una macchia che ti porti addosso, non mi dava la serenità per poter pensare di scrivere un libro del genere, sino a che non c'è stata una sentenza così così profonda, così articolata, tale che mi ha messo nelle condizioni anche psicologiche di poter affrontare un libro che per me è doloroso, perché è sofferenza portare in piazza quella che è stata un'esperienza di grande difficoltà anche umana, però sì. Ho pensato che fosse necessario perché ognuno si possa fare poi un'idea diretta di che cos'è la giustizia veramente, quando usciamo dalle pagine dei giornali e quando parliamo di situazioni reali, quando parliamo dell'umanità, della carne, delle persone che sono coinvolte in situazioni di questo genere. Tra l'altro 4 mesi di carcere, il mezzo è soprattutto questi 4 mesi di carcere, che lei racconta nel libro in maniera molto intensa. Intanto, perché definisce il carcere una terra di nessuno? Ma perché il carcere è un posto dove, io andavo in ufficio ogni mattina, passavo sotto le mura di San Vittore. Sì, che per chi non è di Milano è in centro città, San Vittore. In centro città, sì, e non mi ero mai posto il problema di cosa ci fosse dietro quelle mura. E nel momento in cui passi quelle mura, entri dentro con le manette ai polsi, ma anche come semplice operatore, entri in un mondo di sofferenza, di una diversità del tempo, proprio c'è una distorsione temporale rispetto a quello che c'è al di fuori di quelle mura, che ti pone veramente delle grandi domande. Io ho guardato questo mondo con degli occhi quasi stralunati, cioè ero lì ma non riuscivo a rendermi conto di essere lì e non capivo tutta una serie di logiche, di regole, di situazioni che sono ferme probabilmente a qualche secolo fa. Lei infatti lo ripropone nel libro, tutto è da ripensare in carcere, i regolamenti interni, la burocrazia, la privazione delle troppe libertà, non solo la privazione fisica. C'è una cosa però, dice, che lei scrive non si dimenticherà mai, e sono le manette ai polsi. Sì, le manette ai polsi, sono venuti a prendermi la mattina alle 5, io sono entrato in carcere dopo una giornata tremenda la sera alle 6 e tutto il giorno ero stato senza manette, però nel momento in cui arriviamo davanti al portone di San Vittore gli agenti della Guardia di Finanza mi dicono adesso le dobbiamo mettere le manette. Io chiedo ma scusate, perché siamo stati tutto il giorno senza la necessità di mettermi le manette ai polsi, perché mi dovete mettere le manette? E dice perché per entrare a San Vittore è necessario che lei abbia le manette, e sono delle manette che stringono al di là del valore fisico. Proprio stringono, perché capisci che da quel momento in poi io sono diventato un numero, ho capito di non essere più il Mario Rossetti, il padre di famiglia, la persona che aveva lavorato, la persona che pagava il canone Rai, questo lo dico quasi come simbolo del. Si dice del altro che accuse, pagavo anche il canone Rai, che in Italia. Uno dei pochi, esatto. No, oddio, dei pochi no. Però perché, da tutto il racconto intenso che lei fa della vita in carcere, lei è arrivata a una certezza: il carcere, così come è concepito in Italia, non è redenzione, dovrebbe essere oltre che espiazione della pena. Nel suo caso, addirittura, è stato un carcere inutile, dannoso per lei, perché era completamente innocente, e qui si potrebbe parlare molto della carcerazione preventiva, ma insomma è anche un altro capitolo. È il tema del libro. È il tema del libro. Preventiva. Perché il carcere non redime? Guardi, perché se posso parlare a Radio 24 con una terminologia un po' tecnica, perché i numeri dicono che così il sistema è totalmente non efficiente. Provo a dare 4 numeri per capirci. Il carcere oggi in Italia ce ne sono oltre 200 per 55.000 detenuti. Di questi 55.000 detenuti, le stime che ho visto io, le idee che mi sono fatte, che ce ne sono circa 10-15.000 che non escono perché hanno delle condanne lunghe, perché sono molto pericolosi. Diciamo che in termini di bilancio aziendale, se posso usare come capitale circolante umano delle carceri, ce n'è una parte che non ruota perché sono agli arresti per periodi lunghi. Ce ne sono però altri 40-45.000 che sono quelli che escono ed entrano dal carcere, la media sì. È circa 2-3 volte l'anno, che sono quelli che poi commettono i reati a bassa criminalità, diciamo a bassa intensità criminale, che però danno molto fastidio ad ognuno di noi come padre di famiglia. Io ho 2 ragazzi di 13 e 14 anni e quindi i problemi dei piccoli furti, le rapine, tutto quello che leva la tranquillità alla nostra società viene da quella massa di persone che entrano e escono dal carcere. La differenza è che le persone a cui viene data una possibilità di lavorare in carcere hanno un tasso di recidiva che si abbassa in modo drammatico, andiamo al 20%. Le persone che non lavorano hanno un tasso di recidiva che è superiore al 70%. Quindi Che cosa significa? Che come società, siccome noi spendiamo 3 miliardi di euro l'anno per il carcere, ogni detenuto ci costa 50.000 euro l'anno, questa è una cifra spaventosa. Se noi pensiamo che paghiamo 50.000 euro per avere una persona su una branda che guarda il soffitto per 20 ore al giorno, per tutta la giornata, nel momento in cui riuscissimo a dare un lavoro, a insegnare a fare il pasticcere, a insegnare a fare il pizzaiolo, dare un qualcosa che nel momento in cui escono gli impedisca di tornare a fare quello che facevano prima. Questa è la vera sfida, è la vera sfida, riuscire a dare un lavoro a chi se no, come dice lei, passa 20 ore al giorno su una branda. Allora facciamo così, Rossetti, do le informazioni sul traffico, poi voglio concludere la trasmissione con lei, ancora qualche minuto. Siamo con Mario Rossetti, ripeto, 4 mesi in carcere da innocente, prosciolto da tutte le accuse in primo grado, ha scritto questo libro, Io non avevo l'avvocato, tra poco ci racconta che umanità ha conosciuto in carcere. Allora, con noi c'è Mario Rossetti, ex direttore finanziario di Fastweb, che nella vicenda Fastweb Sparkle fu arrestato, poi prosciolto da tutte le accuse in primo grado, ma si è fatto 4 mesi di carcere. Rossetti, si può addirittura, come lei racconta, forse usare la parola ammirare è sbagliato, ma comunque imparare qualcosa da un boss mafioso conosciuto a San Vittore e considerarlo una delle persone da cui lei ha imparato più cose che non sapeva? Ma ammirare forse non è il termine, certamente c'è da pensare, perché hai di fronte degli esseri umani che soffrono, perché io ribadisco, ci sono dei numeri che fanno impressione, ci sono stati l'anno scorso 43 suicidi fra i detenuti, ma ci sono stati 933 tentativi di suicidio. Contemporaneamente ci sono state 12 guardie carcerarie che l'anno scorso si sono ammazzate. Questo a dire che il fatto che il carcere sia una situazione di estremo disagio, quello che poi dicono gli amici radicali, e che anche il Presidente della Repubblica Napolitano con il suo discorso alle Camere riunite del 2013 ha tenuto a sottolineare, penso che sia un dato di fatto e che sia davanti a tutto. Ci sono delle persone straordinarie, e questo lo trovo, io l'ho riscontrato non solo fra i detenuti, ma anche specialmente fra le persone che poi devono gestire questo sistema, che altrimenti sarebbe fuori controllo. Ci scrive un ascoltatore dicendo: vabbè, ho appena comprato il libro di Rossetti e purtroppo in questo paese rischiamo tutti di essere Rossetti. Lei per la verità l'ha messa proprio nella quarta di copertina, una storia che sarebbe potuta capitare a ogni cittadino, ma davvero così? Guardi, che sarebbe potuto capitare a ogni cittadino. Io sono e rimango una persona normale. Io ero uno che non faceva notizia, non sono andato sui giornali perché il mio nome era importante. Mi sono trovato in un'inchiesta che era più grande di me. La definirebbe kafkiana davvero, come nel processo di Kafka? Guardi, io sono stato interrogato nel 2007, mi scusi, sono stato archiviato nel 2007 e mi arrestano 3 anni dopo. Il mio problema più grande in quei mesi in carcere è stato cercare di capire perché mi avessero arrestato, ma non perché io non sia pronto. Io sono figlio di carabiniere e come formazione sono sempre stato, non so come dire, pronto a rispondere di tutto quello che sono stati i miei comportamenti. Quindi nel momento in cui un pubblico ministero mi avesse rinviato a giudizio, nessun problema andare a rispondere in una sede processuale. Quello che non ha funzionato nel mio caso è stata la violenza con cui sono arrivati gli arresti, il sequestro di tutti i miei beni, per cui tutta la mia famiglia, mia moglie con 3 senza bambini, soldi, trovati, questo lei lo racconta, bancomat, carte, conti, tutto bloccato. Assolutamente, e poi sono stati chiesti da parte di mia moglie un minimo per poter mandare avanti la famiglia, per poter far mangiare i miei figli, gli è stato detto di no. Questo è la denuncia del mio libro, non nasce sul fatto, io credevo e credo nella giustizia, ho avuto giustizia da dei magistrati, quindi su quello non si discute, sono una parte fondamentale del nostro sistema. Ce l'ha invece con i magistrati che l'hanno fatta arrestare? Io ce l'ho col fatto che il sistema delle garanzie, il sistema formale delle garanzie, che è il migliore al mondo, perché noi abbiamo GIP, Tribunale del Riesame, Corte di Cassazione, cioè tutto un sistema che a leggerlo sulla carta è straordinario. Non ha funzionato. Nel mio caso non ha funzionato, poi ci saranno dei buoni motivi, qualche giurista, qualche esperto, qualche penalista diciamo può parlare meglio di me, però nel mio caso non ha funzionato, questo lo prendo come dato di fatto. Senta Rossetti, noi qua siamo in conclusione, lei parla tanto, parla anche della sessualità in carcere, della vita proprio quotidiana, parla appunto, e come ci ha raccontato, anche della importanza di fare una battaglia contro la carcerazione preventiva. Ci vuole lasciare con un'immagine che si porterà, immagino sono tante le immagini che si porterà sempre dentro con sé di questa esperienza carceraria? Ma guardi, io l'immagine che mi porto sempre dentro è l'impossibilità di poter piangere da soli, di poter soffrire da soli in carcere. Quando qualcuno, tanti di questi ragazzi, perché c'è tanti ragazzi giovani in carcere, ha bisogno di stare da solo, l'unico sistema che aveva era di mettersi a letto e tirare su le coperte sopra la testa. Quello è il momento in cui si dice, almeno a Re Bibbia si diceva, se la soffre. E quindi anche il problema di poter soffrire senza essere sotto gli occhi di tutti, in un ambiente che non ti dà nessun tipo di intimità, nessun tipo di la possibilità di stare da solo, l'unico sistema che avevi era ficcarti sotto le coperte, tirar su le coperte per poter stare solo con te stesso, col tuo dolore. Io intanto la ringrazio ovviamente per essere stato con noi e voglio ancora consigliare a tutti poi la lettura, perché poi qua si è parlato per pochi minuti, ma qui c'è uno spaccato del mondo carcerario visto da uno che l'ha vissuto da innocente e che davvero fa impressione. Mario Rossetti, Io non avevo l'avvocato, lo trovate edito da Mondadori. Ovviamente la ringrazio, buona giornata. Ringrazio tutti e coloro con cui ho lavorato anche questa volta, cioè Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli e il nostro alpino Peter Bescapè. Ci sentiamo domattina puntuali 6:30.